kad išteži medza jorti. Ja viv jo čirosieš trabudzati. Come vorrei saper chi è il bastardo che al megat la gamba, la pancia gli ha sbuzzato. Ed era in scibet, in sci simpati, e che era bianco, proprio un belè, se c'ha piquel che la cupa. A pesciare c'è pille. Gli amici m'han dit che l'è stata la linetta, quella con la gambetta se volena. All'han vista in Padula all'ermatina, calar guaiava il gat con un cordetto. E le malmustosa che brutta c'era, e la gaunas spisere gross, vederla in cielo vanno di pena, e tu ci fai che dana dos. Han fatta crack all'enda tantera come un cazzalà, e poi gridavo oh mamma mia, a me son stranit e a son scappat via. Stasera vai a dormir alle corine, la democrazia la pagurò, i mandati del fior de Troia e del mascalzone, ma son convinto gli stessi d'aver ragione. Cosa vuoi dire? O brava gente della ninetta, me frega niente, l'è la giustizia che me fa tor. Ninetta è viva, ma è gatta è mort, l'è la giustizia che me fa tor. Ninetta è viva, ma è gatta è mort, l'è la giustizia che me fa tor. Ninetta è viva. Grazie a voi.